con Lorenzo Marvelli di Teatri Offesi per presentare il nuovo spettacolo Apostasis, in scena a Pianella, provincia di Pescara, giovedì 27 giugno 2019. Lorenzo, ben trovato. Ciao Federico, grazie, bentrovato anche tu. Ci racconti di questo nuovo progetto? Sì, è uno spettacolo che racconta a partire dal mito di Perseo di una ribellione. In pratica è uno spettacolo che ne contiene un altro, nel senso che il mito di Perseo viene continuamente rovesciato, a partire dal presupposto che essere moglie, compagna, madre, amica di un eroe è piuttosto noioso. E quindi, insomma, nello spettacolo tutte le donne che ruotano intorno a Perseo e nello specifico sua madre, sua moglie Andromeda, la Gorgone Medusa, Atena che l'aiuta, tutte quante a un certo punto si ribellano al potere di Perseo e lo distruggono in un certo modo. Questo spettacolo è contenuto in un altro spettacolo dove c'è un regista che cerca di mettere in scena uno spettacolo con il mito di Perseo e continuamente le attrici si ribellano al suo strapotere. Quindi per questo parlavo di due spettacoli in uno. In realtà il regista e Perseo piano piano, appunto, sembrano essere la stessa cosa, la stessa persona e i personaggi del mito, così anche per i personaggi del mito e le attrici dello spettacolo. Di qui il nome Apostasis, apostasia, ribellione, rivoluzione contro il potere dell'eroe, ma anche contro il potere della regia teatrale, poco avvezza alla sensibilità e alla creatività degli attori. Com'è nata questa esigenza? In una maniera un po', diciamo così, anche comica, è nata dalla riflessione intorno a, non so se è un articolo che lessi o un mio amico mi raccontò di questa cosa, una cena a casa di Cristiano Ronaldo raccontata da Chiellini, che era l'invitato, appunto della noia mortale di questa cena, e Ronaldo che si alza continuamente per andare addirittura a nuotare in palestra a fare degli esercizi, chiaramente con un menù molto diverso. E quindi da lì, insomma, mi sono detto perché questi eroi devono, per essere eroi, devono mettere in difficoltà le persone che gli sono intorno. E poi, insomma, sono così antipatici, così avulsi dalla realtà. E da lì, insomma, sono arrivato a Perseo. Raccontiamo anche un po' l'esperienza dei Teatri Offesi. Beh, diciamo che il vizio di Teatri Offesi, ormai ventennale, di prendersela con il potere in tutte le sue declinazioni, anche appunto quello per ultimo rappresentato da un eroe quale Cristiano Ronaldo, è appunto un vizio antico. E in questo, insomma, sta la coerenza di questo collettivo che muta nella forma, nel senso che le persone entrano, escono. Io e qualcuno, insomma, siamo i vecchi del gruppo. Le persone cambiano, però, diciamo, i temi sono sempre quelli. Una certa analisi delle forme di potere e il tentativo, così perlomeno al teatro, visto che in realtà ormai le cose ci dicono che sembra essere quasi impossibile, dicevo, nel teatro il tentativo di rovesciare queste forme di potere, di pensare, direi adesso sognarne altre. Che percorso farà questo lavoro? Gli abbiamo dato, anche per una certa necessità, un percorso particolare. Porteremo questo spettacolo nei giardini delle case. E questo non perché si ami particolarmente la frescura estiva o gli alberi, eccetera, anche se insomma, ma questo perché amministrazioni scellerate che ormai appunto occupano la vita politica della città che abito, di qualsiasi insomma colore politico, negli ultimi 20 anni hanno praticamente distrutto anche proprio solo il concetto di spazio pubblico, per cui portare il teatro qui negli spazi deputati a Pescara è diventato quasi impossibile. Cioè, ci vogliono un sacco di soldi per affittare un teatro o semplicemente una stanza. Per cui appunto abbiamo smesso ormai da tempo di comunicare con le varie amministrazioni, quella passata era di centrosinistra, una delle più terribili che io ricordi, adesso insomma c'è la Lega, insomma non sono neanche così informato, ma non si comunica più con loro se non per partire la presenza all'inaugurazione di un rondò, di uno spartitraffico, insomma. Ed allora, proprio perché è venuta meno questa comunicazione, che prima era minima però pure c'era, portiamo gli spettacoli altrove. E ci è venuta in mente questa cosa dei giardini, ce ne sono tanti, sono quei posti immediatamente a ridosso di Pescara, tanto, tanto verde, e la gente risponde, mette a disposizione questi giardini e noi con gli spettacoli proviamo a dargli un nome, cioè un nome che sceglie appunto il titolare del giardino, quindi portiamo una targa che viene affissa a questo giardino con la data dello spettacolo, quindi inauguriamo e nominiamo i giardini con il teatro. E per avere un calendario di rappresentazioni c'è la pagina Facebook della compagnia? Sì, c'è la pagina Facebook della compagnia, perché una ragazza insomma giovane è entrata e ha messo mano in questa pagina che insomma noi siamo un po' vecchi, siamo poco social, questa ragazza adesso la sta implementando un sacco di contenuti, quindi sì, lì adesso questa pagina è viva, è tornata ad essere viva e lotta insieme a noi, insomma. Ricordiamo l'appuntamento al Giardino Evangelista a Pianella, provincia di Pescara, giovedì 27 giugno 2019, con lo spettacolo Apostasis. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Marvelli di Teatri Offesi, che lo porta in scena. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Ciao Federico, a presto, ti saluto.